Maggio del 2024. Dopo un paio di settimane di assenza ritorna anche lo spazio di prove tecniche di trasmissione qui a Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza e sul web www.ondarossa.info. Prima di cominciare vado a ricordare naturalmente la nostra campagna di crowdfunding, questo radio abbonamento che andrà avanti ancora per circa un paio di mesi e che prevede la possibilità di sottoscriverlo a 50 euro, una tariffa, diciamo, chiamiamola così, annuale, che ci permetterà di, se andrà bene, di permanere nell'esistenza dell'etere. Un radio abbonamento affinché questi spazi di libertà culturale, politica ed etica possano andare avanti nel tempo. Quindi c'è il banner specifico sul sito della radio e lì si può scegliere. Vado a salutare Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria, Anna invece qui a Roma, Venusia Zozzetta Stramonio, fedelissima come al solito. Un saluto a Mariano, Anni Thierry. A Cortina d'Ampezzo abbiamo Tabula Rasa. In Sardegna, progetto sonoro nella persona di Marco Mascia. Anche Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante. Ricordiamo che domani, per chi non può ascoltarci questa sera, c'è il puntuale podcast domani in mattinata. Confesso apertamente che me lo risento anch'io ogni volta, anche lavorando. Sarà un po' di parte, anche perché ci sentiamo della bella musica, si fanno delle belle chiacchiere e delle riflessioni. Allora, quindi andiamo ad iniziare. Alle 22.30 dovrebbe andare in onda 25 o'clock. Allora, cominciamo con andare a scandagliare il vasto sottobosco dell'ambient romana con, diciamo, chiamiamo una new entry per quanto riguarda le selezioni del sottoscritto. Sto parlando di Stefano Tasci, di Stefano Tasci ci andremo ad ascoltare un vecchio lavoro del 2019 in attesa di una sua nuova uscita. L'album si chiama Sinergia. Ci ascolteremo La Mantrica, a cominciare anche dal titolo Raga numero 2, e poi The Sky Rushes. chiama a sinergia per quanto riguarda il romano Stefano Tasci. Stratificazioni ambient, ma anche allusioni alla cultura kraut rock di teutonica memoria. Registrato durante un live al gloriosissimo Klang, realtà ormai scomparsa, il 27 febbraio del 2019 con al mixer Michele Papa, anche lui comparso insieme a Gianclaudio Moniri di Plaster nelle selezioni del sottoscritto. E ringraziamenti vanno anche a Marco Bonini e a Cristiano Latini, personaggi importanti della scena romana anche di queste sonorità. Vado a salutare Cecilia Miradoli di Pindar, Lucia Cagliazza di Lupsi, Sara Boy che ci sta ascoltando ormai affezionata da Berlino. E mi fa piacere che soprattutto a Venusia questi suoni così soffusi e liquidi possano solleticare la mente, ma non solo. Saluto anche Sara K.O. Fontana di Xaide, al pari di Dario Arrighi. Sì, cara Venusia, ho detto Plaster perché nella stesura e nella cura degli arrangiamenti di questo Sinergia di Tasci c'è anche la collaborazione di Gianclaudio Moniri. Vi racconto anche un aneddoto, così, una cosa curiosa. Il buon Plaster, ogni tanto lo incontro la mattina mentre vado al lavoro, ci incrociamo in bicicletta, lui a piedi, io che sto arrivando al lavoro la mattina presto. In quel della ciclabile romana, Roma Nord. Torniamo nell'universo, dopo appunto quelle due settimane che dicevo di pausa, nell'universo di Raffaele Pezzella attraverso la sua Eight Tower Records, una delle sue numerose etichette fondate ormai da qualche anno. E dunque andiamo a riprendere questo Dracula Music Inspired by the Bram Stoker Novel, la Dracula, la novella strafamosa di Bram Stokers. E qui una serie di musicisti hanno reso omaggio a questo immaginario che credo abbia colpito tutti noi nel passato. E questa sera tocca al finlandese Outcree con Recognition, She is Undead, e poi lo spagnolo Danny Club con In Her Vampire Form. ogni compilation di Raffaele Pezzella è un vero e proprio viaggio mentale, un viaggio negli abissi del kraut, dell'ambient, compreso questo Dracula, Music Inspired by the Bram Stoker's Novel, e questa sera questi due artisti. Il finlandese Outcry, ossia Ken Kovacin, e lo spagnolo Danny Klob. Saluto Mara Lasi di Calitis, Wurnus Island, la storia dell'industrial piemontese. E vado a risalutare Dario Righi di Zaide. I più attenti e con la mente sveglia sanno che maggio è un mese particolare dove si vanno a ricordare degli artisti che sono scomparsi proprio di questo mese. Di maggio sono morti Ian Curtis, Marco Corbelli, 6 maggio del 2007, dopo lo ricorderemo, ma anche Franco Battiato, che curiosamente è morto il 18 maggio, anche lui però del 2021. E quindi a proposito dei pionieri della musica sperimentale, approfittando di questa ricorrenza, andiamo un po' a ritirare fuori i primordiali album di Franco Battiato, a cominciare da Fetus, targato 1972. Ci ascoltiamo Energia, la stessa Fetus e Cario Cinesi. Quella che rideva che facevamo in casa. Qualche mia energia, quanti figli dell'amore ho sprecato io, racchiusi in quattro mura ormai saranno spazzatura. Se un figlio si accorgesse che per caso è nato fra migliaia di occasioni, capirebbe tutti i sogni che la vita dà, con gioia ne vivrebbe tutte quante le illusioni. Quante lacrime ho strappato senza mai piangerci su, quante angosce ho provocato per godere un po' di più. Quante frasi false ho detto, quante strane verità, per fare sul mio metro questa personalità. Non ero ancora nato, che già sentivo il cuore, che la mia vita nasceva senza amore. E mi trascinavo adagio dentro il corpo umano, per le vene, verso il mio destino. Un nucleo si divide. l'errore lo interrompe. È dentro al meccanismo vero che si chiama caso. Inquadrate dunque Franco Battiato nel 1972 e capirete la genialità di questo Fetus, primo lavoro per lui, per questo artista siciliano, morto come ho detto il 18 maggio 2021. Oggi avrete anche saputo della morte di Steve Albini, anche questa è una grossa perdita. È incerto. Peraltro anche giovane, 61 anni, produttore e musicista. La voce è marmo e cemento. In questo Fetus i testi sono stati scritti all'epoca anche da tal Frankenstein, che in realtà nascondeva il nome di Gianni Sassi, uno dei fondatori della Cramps, altra meravigliosa esperienza degli anni 70. Per attuare il controllo attorno ai miei occhi c'è nebbia. Na na na na. Battiato, lo ricordiamo, negli anni 60, cantante quasi di musica leggera, e poi fortunatamente nei 70 ha avuto la svolta sperimentale che è andata avanti per molti anni, e poi ha avuto il merito, almeno secondo me, di alternare dischi magari più accessibili ma sicuramente geniale a altri invece molto più complessi e ostici, e questa forse è stata l'abilità di Franco Battiato in tutta la sua carriera. Andiamo avanti, torniamo, non dico ai giorni nostri ma quasi, andiamo a ritrovare anche Ignoto Miniti, un progetto friulano che alterna neofolk, martial e soprattutto narra della crudeltà della guerra, soprattutto della prima guerra mondiale, con tutto il portato di sofferenza, di morte, di distruzione, in un messaggio diciamo neanche troppo velatamente antiguerra. E allora stiamo riprendendo un album, anzi un 3 tracce, uscito il 28 luglio del 2021, un live dal nome Per vincere la guerra, per le opere di pace, e ci andremo ad ascoltare 2 versioni diverse di brani già apprezzati in passato, ossia Nella nebbia e Risveglio. Thank you. cadavere dell'eroe. Subito, signor colonnello. Ah, mio figlio! Tuo figlio! Morto! Morto, mio figlio! Coraggio! Fantasma! È morto da eroe per la patria! Per il nobile! Morto! Morto, mio figlio! Ah! Gli austriaci me l'hanno ucciso! Maledetti! Maledetti! Thank you. le livide soluzioni sonore di ignoto Militi. Le cronache di guerra, dunque, di sofferenza, di sangue, la guerra di trincea, la grande guerra prima della prima guerra mondiale, dunque. E le amare constatazioni che si possono anche vincere dal campionamento dei suoni e delle voci. Nella nebbia il risveglio in due versioni rivisitate da ignoto Militi. Intanto saluto Barbara Caridi. Mentre ora mi vado ad accingere a andare un po' a rivedere il tribute to Radio Legend, cioè questa compilation dedicata a me, al sottoscritto, alla cosiddetta leggenda della radio, dunque tribute to DJ Elettrodo, una collaborazione tra un 30-35 artisti che ha avuto molti mesi di gestazione e che è uscita il 14 marzo di quest'anno, che corrispondeva al giorno del mio compleanno. Ringrazio Cristiano Bocci per aver assemblato tutti i vari artisti, che vado a ringraziare chiaramente anche loro. E questa sera è il turno di, ricominciando il tutto da Daniele Ciullini con The Future Has Fire, It's Ice, e lo scozzese Michael Bonaventure, entrambi spesso presenti nelle selezioni del sottoscritto. Di Michael Bonaventure ci ascolteremo Ogral. Some of them never could end up getting married and